l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, l'appuntamento settimanale che Radio 24 dedica all'Europa, l'Europa delle storie, dei personaggi, per respirare quella che è questa nuova cultura, un programma in collaborazione con Euronet, questo network di radio europee, e dove insomma troviamo spunti, troviamo notizie, troviamo un po' quello che è il polso del nostro continente. Un programma però che vogliamo fare anche con voi, con le vostre segnalazioni, con le vostre recensioni. Queste sono le coordinate per intervenire, per mandarci i vostri appunti di viaggio, anche i vostri spunti europei, i vostri post-it, così possiamo chiamarli, via sms al 349-238-6666 oppure via email. L'indirizzo è l'altraeuropa@radio24.it. E a proposito di Euronet, vi consiglio il sito che è www.euronet.eu. Perché? Perché oltre a tantissime notizie ci sono anche dei sondaggi. La cosa divertente è che sono sondaggi a livello europeo, quindi non solo legati alla nostra nazione, ma si allarga un po' il campione e si parla ovviamente di mondiali, perché sono tanti i punti di contatto tra i mondiali di calcio e l'Europa. C'è questo sondaggio in atto considerate il Sudafrica un paese a rischio per i turisti, perché tanti europei non sono andati in Sudafrica, al di là appunto dei costi ovviamente, un po' anche per timore. Il 57% delle persone, degli europei, per ora hanno risposto sì, ritengono che sia un rischio andare in Sudafrica, mentre il 43% dice no. Insomma, il Sudafrica sta facendo grandi sforzi per garantire la sicurezza e merita di avere in pieno una chance. Quindi insomma non ci siamo andati per altri motivi, non perché non avevamo paura, ma l'Europa sarà presente in Sudafrica e per alcune nazioni sarà un vero esordio. Ascoltate un po' questo inno, perché dovremo impararlo ben presto. Nel girone dell'Italia, stiamo parlando della Slovacchia, che l'Italia incontrerà il 24 giugno. La Slovacchia per la prima volta partecipa con la propria nazionale ai mondiali di calcio. Lo confessiamo, non siamo sicuri che questo sia proprio l'inno ufficiale, perché in rete ce ne sono mille versioni diverse, anche nei siti ufficiali. Insomma, volevamo capire cosa sta succedendo in Slovacchia, se c'è emozione, se c'è attesa di questo esordio della nazionale. Tra l'altro oggi è una giornata particolare per la Slovacchia, perché ci sono anche le elezioni, e quindi abbiamo convocato uno slovacco per conoscere dalla sua viva voce quello che sta accadendo. Diamo il benvenuto a Marek Lavenka. Ciao Marek. Ciao a tutti. Marek, intanto dacci subito conforto, questo è l'inno ufficiale? Sì, certo. Perfetto, perché ha una strana storia, se è vero quello che abbiamo trovato in rete, nel senso che ci sono più inni in Slovacchia, cioè ce n'è uno ufficiale e uno invece che il popolo ama di più? No, almeno io non lo so questo. Conosco uno, quello che avete suonato, e quello va benissimo. Ha anche delle parole? Sì. Mm-hmm. Di cosa parla, lo sai? Non te lo faccio cantare, prometto. Certo che lo so. Di cosa parla? Del popolo, classiche cose da inno. Ho capito. E tu parli italiano molto bene, sei un manager, Marek, sei anche un appassionato di calcio? Sì, okay. Sì, giusto. Mm-hmm. C'è attesa per questo esordio? Alla grande. Molta, davvero tantissima qui in Slovacchia. Mm-hmm. Ma adesso parliamo proprio prettamente di calcio, dal punto di vista tecnico è una squadra valida? Come dire, in poche parole, ovviamente non siamo di quelle squadre grandi come Italia, Brasile, Argentina, quelle che vanno là per combattere, vincere oro o qualche medaglia, quello no. Siamo una squadra, diciamo, media, forse in contesto di mondiali media piccola, che però per la prima volta nella nostra storia, ci sarebbero 17 anni, dello Stato, da quando ci siamo divisi come Cecoslovacchia in due paesi, Repubblica Ceca e Slovacchia, quindi per noi sarà la prima volta e già una festa oggi, quindi adesso giusto per vedere come andrà, speriamo bene. Tra l'altro nella fase di qualificazione avete eliminato la Repubblica Ceca, cosa che vi ha dato particolare godimento, vero? Sì, Tantissimo, è vero. ma la Repubblica Ceca ti farà Slovacchia, scusa, perché... Sì, ovviamente. Noi ci siamo divisi, per fortuna, in un modo davvero molto amichevole. Siamo stati fratelli per tanti anni e lo siamo anche oggi, giusto che non viviamo nello stesso paese, ma in due diversi. Ovviamente li abbiamo battuti, siamo passati noi in questi mondiali, però sono sicuro e ne ho tantissimi amici in Repubblica Ceca che loro ti faranno adesso noi come noi lo facciamo per loro, sicuramente. Marek, la Slovacchia è una repubblica molto piccola, come territorio è più o meno grande quanto la Sicilia. Come si sta però lì, proprio nel centro dell'Europa? Sì, è vero, noi siamo grandi quanto Sicilia, abbiamo più o meno 5 milioni di abitanti, quindi credo come regione Sicilia può andare bene come paragone. Sicuramente siamo qua messi in centro d'Europa, io credo si vive molto bene. Io ho vissuto gli ultimi 10 anni fuori, di cui 7 in Italia, 3 a Praga, e adesso 10 anni sono tornato a vivere qui in Bratislava. Si sta bene, stiamo costruendo un bel paese, siamo partiti pochi anni fa, come ho detto 17 anni fa, però siamo credo posizionati molto molto bene, che vuol dire siamo davvero in centro d'Europa, vicino a tutto, in poche ore si può raggiungere da Bratislava tanti paesi come non so Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia, Italia, siamo molto vicini a tutti, quindi io credo si vive davvero bene. Insomma, una posizione privilegiata. L'altra Europa. L'altra Europa, con noi Marek Lavenka da Bratislava, stiamo parlando della Slovacchia, abbiamo preso spunto dal fatto che farà il suo esordio, la nazionale, per la prima volta parteciperà ai mondiali di calcio. E Marek, però dicevamo oggi anche una giornata particolare, ci sono le elezioni in Slovacchia, cosa accadrà? Sì, oggi ci sono le elezioni, quindi ognuno di noi qua, cittadini di Slovacchia, ce l'ha questo diritto, a dovere forse dire, di andare a votare, scegliere qualche gruppo, qualche partito, fare un segno, poi si contano i voti e vedremo. Però io credo che andrà bene. Di nuovo si va avanti, ovviamente. Ok, adesso al governo ci sono i socialdemocratici della SMER, e vi aspettate ribaltoni? Sì. Io direi di sì. Okay. Io credo che hanno avuto possibilità, non hanno fatto il meglio che si poteva. E adesso c'è il tempo di dare la possibilità a qualcun altro, almeno quello è che credo io che succederà. Ok, grazie davvero Marek, e insomma in bocca al lupo alla Slovacchia. Adesso sono un po' di parte, magari io mi auguro che faccia un grande campionato del mondo, magari potrebbe sbagliare giusto la partita con l'Italia. Vedremo, ok. Noi ci saremo. Grazie davvero, ciao Marek. E dalla Slovacchia passiamo a un altro esordio da nazionale, insomma questa Europa che va in mondiali, con la Serbia, e che tra l'altro ho qui un articolo, perché due esperti di scienza del calcio hanno realizzato un libro che si chiama Calcionomica, e hanno fatto test, hanno fatto statistiche, insomma hanno applicato degli algoritmi, hanno tentato di trasformare il calcio in una scienza esatta, e secondo i loro calcoli la finale di quest'anno potrebbe essere Brasile-Serbia, con una vittoria dei sudamericani, e quindi abbiamo convocato un tifoso della Serbia. Diamo il benvenuto ad Aleksandar Jovanovic, libero professionista che lavora tra Trieste e Belgrado. Ciao Aleksandar. Ciao, buongiorno a tutti. La Serbia è pronta per la finale contro il Brasile, secondo te? Io sempre non ero buono in matematica, non ci credo in questo. Sarebbe troppo, troppo bello. Allora, Aleksandar, anche la Serbia di fatto è la prima volta che partecipa come Serbia ai sì. mondiali di calcio, vero? Sì, perché in precedenza, perché Serbia faceva parte della nazionale di calcio della Jugoslavia, e poi anche della nazionale di calcio della Serbia e Montenegro. Quindi... Ma dopo 2006, dopo quel referendum per l'indipendenza dal Montenegro, Serbia ha formato sua nazionale di calcio. Tu vivi tra Trieste e Belgrado, quindi tra l'Italia e la Serbia. Il tuo cuore è per chi tifa? Questo è una cosa, no? Sono delle persone felici perché ho due patrie, Serbia e l'Italia. E sempre in momenti come questi, non lo so, l'anima e il cuore si spacca, si divide in due, metà per l'Italia, metà per Serbia. Ecco, quindi puoi fare però un paragone su come si vive la nazionale, su come si vivono i campionati in due nazioni comunque vicine, c'è lo stesso, diventano tutti allenatori, diventano tutti tifosi durante i mondiali. Sì. Una nazione da un popolo da 8 milioni e tutti 8 milioni sono cittadini, almeno metà, cioè i maschi. Popolazione, sì, ma più o meno si festeggia nello stesso modo, non ci sono delle grandi, diciamo, differenze, atmosfera di una festosa, diciamo, partecipazione, l'atmosfera calda, direi anzi caldissima. Ci sono italiani che non tifano Italia, ci sono serbi che non tifano Serbia? No, non ci credo, no. Almeno io non li conosco. No, eh? No. Assolutamente no. Ok. Quindi insomma c'è attesa, c'è partecipazione e c'è un po' di emozione. Si sente questa prima volta? Sì. Diciamo, siamo orgogliosi perché queste, come li chiamano là, le aquile bianche, così soprannominate, diciamo nazionale serba, partecipano per la prima volta. Cioè, le aspettative sono alte. Le testate giornalistiche sempre parlano, le aquile voleranno in alto e così. Vediamo. Buon volo allora, Alexander. Sì, grazie. Grazie davvero. Questa è l'Europa ai mondiali di calcio. Questa è l'altra Europa. Europost-it. Il pallone si mette in mostra. Si intitola One Shot, l'allestimento dedicato al fascino del calcio nell'arte contemporanea, inaugurato nello spazio BPS 22 nei pressi di Charleroi in Belgio. Oltre 50 artisti hanno rappresentato il calcio come metafora del mondo d'oggi. Da non perdere il video mozzafiato realizzato da Gordon e Parremo, che con le telecamere hanno inseguito Zinedine Zidane durante una delle sue ultime partite, ottenendo un perfetto mix tra un videoclip e un videogame. Per saperne di più, bps22.einout.be. L'altra Europa. I vostri sms al 349-238-6666, oppure potete farvi vivi via email l'altraeuropa@radio24.it. Cerchiamo sollecitazioni, cerchiamo recensioni, cerchiamo storie per raccontare questa nuova cultura europea. E noi lo faremo andando in giro per l'Europa alla ricerca di persone e personaggi che amano contaminarsi. Stiamo andando in Belgio. Perché? Perché nelle nostre ricerche, anche a caso a volte, perché è il bello della rete, che ti porta a esplorare nuovi mondi. Siamo incappati in una radio italiana. Siamo in Belgio. Questa radio italiana è stata fondata nel 1982 da Pino Sanremo e l'abbiamo convocato per capire come si fa a fare il DJ in Belgio parlando solo italiano. Ciao Pino, benvenuto all'Altra Europa. Ciao Federico, buongiorno a tutti. Senti la voce da DJ, vedi, ce l'hai. Come va? Ciao, ben ritrovati, devo dire, avete scavato bene, siete venuti a trovarci così per puro caso magari, o no? Assolutamente sì, lo ammetto. Come si chiama la tua radio? Radio Italia Charleroi. Ah ok, quindi hai messo Radio Italia perché giustamente Charleroi è il posto in cui ti trovi. Radio che viene ascoltata in tutta la nazione? No, soltanto nella città, ecco, nel grande Charleroi. Charleroi è fatto da 17 comuni, quindi abbiamo 220.000 abitanti nella nostra grande città. E da 4 anni, devo dire, grazie alla mia passione musicale, quindi grazie soprattutto alle nuove tecnologie e grazie a internet, quindi questa radio adesso è ascoltata in tutto il territorio, non soltanto in Belgio, ma soprattutto in gran parte d'Europa e in parte del mondo. Mm-hmm. Tu sei in Belgio dal 1972, come mai che sei andato lì? Come tanti abbiamo cercato di uscire dal nostro territorio. Io peraltro per scelta di sentire che al di fuori dall'Italia c'era un'America diversa, un'America in cui c'era del lavoro, e sono venuto a essere stato convinto dai miei concittadini che era molto diverso in Europa che dalla nostra Italia. Quindi attualmente, ancora oggi, mi domando perché sono partito dall'Italia, quindi avrei preferito restare in Italia. È strano, no? Perché si parla di Europa, si parla di nuova cultura europea, e tu di fatto però porti veramente un pezzo d'Italia in Belgio, nel senso che ti interessa a te questo nuovo incrocio tra culture, o ci tieni a mantenere la tua italianità in onda? Ma io no, credo che, infatti l'hai detto per ultimo, credo di mantenere la mia identità, di quella che io ho vissuto in Italia, perché io venendo qua in Belgio avevo già 20 anni e quindi portavo con me un bagaglino, una cultura che io ho conosciuto, ed è grazie a quello che ho conosciuto io vedendomi all'estero, purtroppo devo dire, cercavo di trasmettere questa mia passione musicale a chi non la conosceva. Quindi così è nata praticamente questa radio nel 1985, ufficialmente riconosciuta dalla comunità francese, di darci questa possibilità di trasmettere in italiano, e lo facciamo dall'85 ovviamente. Mm-hmm. Ma tra il tuo pubblico è formato solo da italiani? No, è formato ovviamente da italiani, questo è sicuro, all'80%, ma anche un 20% possiamo dire è di nazionalità francese, che amano l'Italia, amano la lingua italiana e ascoltano questa radio. Ovviamente la musica, l'Italia e la musica attira tanti popoli, ovviamente, perché c'è poco da escluderla su questo campo. Ma è solo musica o è anche programmi? Di cosa parli? Noi parliamo ovviamente di programma, ovviamente non è che abbiamo soltanto una musica, oggi lo trasmettiamo, facciamo vedere quello che questa radio può avere come patrimonio. Su questa radio, ovviamente, essendo che sono un appassionato e potrei dire tra parentesi anche un collezionista, ci sono oltre 40.000 canzoni, abbiamo costruito uno dei più grandi jukebox, diciamo mondiali, uno dei più grandi, ovviamente lo dico anche perché ci sono dei siti internet in cui parlano tantissimo di questa nostra radio. Il perché? Perché vuol dire che c'è un grandioso archivio, e questo archivio ci fa molto ricchi e ci fa conoscere soprattutto in tutte le altre parti del mondo. Ma perché dico questo qua? Lo dico soprattutto perché ho capito che ci sono milioni di italiani di seconda e terza generazione al di fuori dall'Italia, e quindi volevo costruire soprattutto questa radio per cercare di recuperare questi tanti italiani che sono sparsi in tutte le parti del mondo. E questa radio, devo dire francamente, le statistiche ce lo danno, ce lo stanno dando attualmente, di vedere da dove ci ascoltano e da dove arrivano. Quindi questa radio sta producendo un suo benessere praticamente, per l'Italia soprattutto. Pino, un'ultima domanda, ma quando ti svegli la mattina pensi di essere in Italia o pensi di essere in Belgio? No, io 24 ore su 24 penso, non penso, sono in Italia e porto anche, ovviamente vi porto di essere in Italia. Io non mi sono mai sentito, col rispetto che ho per il territorio dove ci abito, per amor di Dio, però io mi sento sempre di essere in Italia, vivo con la mia mente portando quello che l'Italia mi ha dato, ci ha dato, portarlo nelle case e in tutte le parti del mondo. Diamo il sito della radio, che è www.radioitalia.be. Ciao Pino Sanremo, grazie davvero per essere Federico, stato all'Altra Europa. Ciao, buon ciao, sabato. Ciao. Europost-it. Bruxelles, ovvero la città che rallenta. Andare più piano, uno stile di vita più sostenibile e sicuro. Da settembre, infatti, a Bruxelles il limite di velocità, in quello che viene definito il Pentagono, cioè il centro storico, diminuirà e le auto non potranno circolare a più di 30 km orari. Una decisione che ha suscitato molte polemiche, ma un lato buono c'è, assicurano i media. A quella velocità gli automobilisti hanno ben 13 secondi in più per godersi lo spettacolo del Palazzo Reale. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia. L'altra Europa, un viaggio nel nostro continente per respirare una nuova cultura. E lo facciamo attraverso l'Erasmus. L'Erasmus è questo progetto lanciato dalla Commissione Europea nel 1987, attualmente coinvolge 14 nazioni, 26 università per un totale di oltre 700.000 studenti. E sì, mobilità studentesca a livello universitario, la possibilità di andare a studiare in un altro paese, di farsi un'esperienza sia di studio ma soprattutto un'esperienza di vita. Potremmo, credo, fare un'intera puntata sull'Erasmus con i vostri ricordi, perché l'Erasmus è soprattutto possibilità di incontrare, è soprattutto possibilità di mettersi in gioco. Vi ricordo che comunque potete scriverci se avete belle storie da segnalarci, poi ne parleremo anche nelle prossime puntate. 349-238-6666 per farlo via sms, oppure l'altraeuropa@radio24.it. L'Erasmus Day, che in questi giorni sta celebrando, doveva essere oggi la festa conclusiva, poi per condizioni meteorologiche avverse è stata posticipata di qualche giorno. L'Erasmus Day, perché a Torino, che è la capitale europea dei giovani 2010, si sono celebrate varie settimane di festa, appunto per sottolineare l'importanza di questo progetto. E con noi abbiamo il fondatore della manifestazione dell'Erasmus Day Live, insieme a Pierangelo Saba, che è Dario Martinetti. Ciao Dario, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a tutti, mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro, sì. Bene. So che... Faccio solo una piccola correzione, perché i numeri iniziali, i 700.000 studenti, le 30 università, in realtà appartengono al progetto Erasmus Day Live, perché il progetto Erasmus coinvolge molti più studenti, si parla di 2 milioni di studenti coinvolti in tutta Europa. Noi abbiamo delle università partner e diciamo l'Erasmus Day Live è riuscito in questi 3 anni a coinvolgere 700.000 studenti. Ecco, ma questo Erasmus Day che senso ha? Volete fare un po' il punto su quello che è il progetto, o è un lancio per invogliare altri studenti a fare le valigie e a partire? Diciamo che l'Erasmus Day nasce proprio per celebrare il progetto Erasmus, ed è nato nel 2007 proprio in occasione dei 20 anni della nascita del progetto Erasmus. Gli obiettivi principali sono il fatto di promuovere il concetto di cultura europea, promuovere i giovani artisti d'Europa, quindi per questo motivo organizziamo mostre di artisti da tutta Europa, cerchiamo di dare spazio ai musicisti dei vari conservatori durante le nostre manifestazioni, e cercando ovviamente di dare più visibilità possibile a loro. E poi valorizzare la cultura europea, valorizzare a partire anche da dove realizziamo l'evento finale, nel giardino della palazzina di caccia, cioè cercare di dare valore alla storia, alla cultura, e portarla ai giovani, diciamo, in questo senso, con proiezioni culturali, con i monumenti europei, insomma cercare di sensibilizzare e avvicinare un pochino di più i giovani alla cultura, ecco. Dario, i giovani italiani partono, vanno a studiare all'estero, insomma questo Erasmus calamita molto per fortuna l'attenzione dei giovani studenti. Tu ne conosci a centinaia di questi studenti, solitamente però, questa è la domanda, te la voglio ribaltare, perché viene scelta l'Italia come meta di studio? Lo hai chiesto agli studenti stranieri che scelgono appunto l'Italia per il loro Erasmus? Ma l'Italia è un paese sicuramente interessante, quindi come molti studenti italiani scelgono la Spagna, e tanti ragazzi, naturalmente non tiene nasconderlo, in Erasmus vogliono anche divertirsi. E sicuramente l'Italia è un paese molto divertente, molto anche alla sera ci sono tante situazioni interessanti nelle varie città. Noi siamo a Torino, per esempio, ci sono moltissime realtà notturne di divertimento. Stessa cosa vale per la Spagna, per cui tanti studenti cercano di scegliere una nazione dove non soltanto si va a studiare, a imparare una nuova lingua, ma ci si diverte anche, ecco. Beh, insomma, questo è un aspetto interessante che è inutile nascondere, insomma, accompagna la vita dei giovani universitari. Diamo il sito per chi volesse conoscere il progetto, anche se ormai siamo alla conclusione, però è un ottimo aggancio per conoscere il lavoro che avete fatto e che farete, che è www.erasmusdaylive.eu. Dario, al volo ci puoi dire il quando e il come si concluderà l'intera manifestazione? Assolutamente, saremo il 18 giugno, venerdì 18 giugno, quindi venerdì prossimo, all'interno della palazzina di caccia di Supinigi nel giardino con l'evento conclusivo Erasmus Day Live. In ogni caso rimaniamo sempre incollati al meteo, perché naturalmente se dovessero di nuovo dare previsioni terrificanti, chiamiamole così, siamo costretti a spostarlo di nuovo, quindi sicuramente il sito internet e anche il fan di Facebook sono due riferimenti fondamentali, perché nell'immediato riescono a dare informazioni in tempo reale, diciamo. Ottimo, grazie davvero Dario, ciao e buon sabato. L'altra Europa. Europost-it. Girare il mondo è un gioco da ragazzi, ma non solo. Il più gettonato dei viaggi, il classico Interrail, diventa più allettante anche per gli over 60. A loro, infatti, sono riservate una serie di offerte sul pass Interrail Global, come lo sconto del 10% sulla tariffa adulti, sia in prima che in seconda classe. Tutte le informazioni su italiano.interrailnet.com. L'altra Europa. È bella questa cosa dell'Interrail anche, insomma, non solo per i giovanissimi, ma per gli over, insomma, è la possibilità di viaggiare l'Europa in treno, magari dormendo anche negli ostelli, che anche l'ostello ormai è assolutamente organizzato per le famiglie o per chi, insomma, non vuole solo il sacapelo e un posto per terra dove appoggiarsi. Ma rimaniamo di fatto incollati all'Erasmus, perché proprio da un viaggio Erasmus parte questa storia. Lui si chiama Daniele De Michele, ma ormai ha un nome d'arte, questo nome d'arte è Donne Pasta. È originario del Salento, ma oggi vive a Tolosa, nel sud della Francia. È un chef, sa cucinare, ma anche un teatrante, anche una persona che ha fatto della contaminazione il suo stile di vita, contaminazione di culture, ma mettere anche insieme sullo stesso palco il suo essere cuoco, il suo essere musicista, il suo essere DJ, gastronomo, economista, ecologista, portando in giro per l'Europa, ma è stato anche tanto in Italia, i suoi progetti di cucina e cultura. Con noi quindi c'è Daniele De Michele, Donne Pasta. Ciao Daniele! Ciao, buongiorno a tutti, un saluto da Toulouse. Da Toulouse, che insomma, città che tu hai scelto con l'Erasmus, o sbaglio? No, l'Erasmus lo fece a Parigi nel 97 e fu un'esperienza ovviamente fondamentale. Poi sono ritornato in Italia e poi sono ripartito per Toulouse nel 2006. Ecco, e già lì eri Don Pasta, cioè, nel senso già che... Già lì ero Don Pasta, avevo pubblicato un libro per Kowalski, Feltrinelli, che si chiamava Food Sound System. Stavo cominciando a costruire un progetto teatrale, appunto con lo stesso nome, in cui io cucinavo con dei musicisti sul palco e niente, quindi a quel punto, per una serie di ragioni anche personali, sono partito in Francia e il comune di Toulouse ha, come dire, apprezzato e sostenuto il progetto facendone uno spettacolo prodotto dalla Mairie de Toulouse. Allora, l'appartamento Erasmus è sempre un grande classico nell'immaginario, quindi abbiamo capito che tu eri quello che cucinava, perlomeno. È il caso di dirlo. Cioè, certo. Si parla tanto di te, e soprattutto all'estero. Abbiamo trovato un bellissimo servizio, per esempio, su cafebabel.com. Qual è la tua forza? Cosa hai portato sul palco? Non credo solo un piatto di pasta. Paradossalmente sì, nel senso che poi il piatto di pasta ha questa universalità e la forza della semplicità, nel senso che noi veniamo da un paese che, non bisogna dimenticarlo, negli anni 50 era distrutto e proprio in quel periodo mostrò una delle più grandi forze della fantasia, che però si rapportava anche con la semplicità dei piatti di pasta. Cioè, tutto il grande cinema italiano in un momento o nell'altro si è confrontato con la semplicità dei piatti di pasta, cioè La miseria e nobiltà, e tutti i film italiani partono da quello, Albertone, e non è un caso, perché semplicemente il cibo ha questa universalità, tocca chiunque, qualsiasi persona è investita da questo legame con la memoria. La cosa interessante è che io, per fare questa cosa, cioè questa operazione molto personale legata alla memoria del cibo a casa, questa grande, io vengo dal Salento, quindi queste grandi tavolate della domenica che per me erano fondanti, perché costruivano una comunità in un certo senso, poi però venivano mischiate col mio essere DJ, e quindi il DJ per forza di cose è contaminato. Il DJ deve essere curioso, deve ascoltare le musiche di tutto il mondo, una sorta di deontologia professionale quasi, e quindi questa sorta di cortocircuito fra il vecchissimo, che erano le vecchie ricette della mamma, della nonna, della famiglia, che si scambiavano fra famiglie, si incontrava con questo mio essere una sorta di globetrotter della musica, e questo è il risultato probabilmente, questa unione un po' surreale ma molto semplice fra l'antichissimo e il moderno. Ecco, e quanta Tolosa c'è in questo progetto? Quanta contaminazione con l'essere lì, con l'esserti trasferito? Quanta Francia. La cosa è questa: Toulouse, come la Francia intera, devo dire, mi ha aiutato, perché c'è una grande trasparenza nella selezione di progetti pubblici. Quindi loro hanno considerato questo come un progetto che poteva, nel bene o nel male, nel piccolo o nel grande, servire a parlare di Mediterraneo, e quindi l'hanno sostenuto. Il fatto di avere un'istituzione pubblica, cosa che ha avuto difficoltà a avere in Italia, che sostenesse un progetto teatrale, artistico, che per loro era fondamentale, per me è stata, come dire, la chiave di volta dei miei progetti. E più in generale, il fatto di aver girato molto in Francia e aver vissuto a Parigi ti mette in una condizione di meticciato permanente, nel senso che è un progetto peraltro che sto facendo sempre per il comune di Toulouse, di vedere come per esempio i ristoranti etnici hanno permesso, grazie a questa curiosità molto semplice, quella del cibo, di ricostruire un'identità delle città. New York, Parigi, Londra si basano ormai su queste identità multiple di tutti i paesi che vengono e danno un contributo. In Italia si fa ancora molta molta fatica a immaginare che le città sono ormai delle metropoli medici. Sì, insomma, per fortuna ormai è un dato di fatto, e quindi come dato di fatto si sono dei contributi importanti nella cultura, nella musica, nel cibo, Daniele, nel lavoro semplice. Daniele, ti fermo un attimo perché abbiamo le informazioni per chi sta viaggiando, però quando rientriamo ti chiedo se in un minuto ci rappresenti una di queste ricette, però stai attento perché davanti a me c'è Davide Paolini, il gastronauta, quindi quando si parla di cibo lui è uno che poi viene a correggere con la penna rossa. L'altra Europa. Pasta con il sugo multirazziale antirazzista, è un po' questa la ricetta di Don Pasta, che sta girando l'Europa con questo spettacolo Cook and Roll Circus. E Don Pasta in arte, e il suo vero nome è Daniele De Michele. Allora Daniele, ci dai veramente un esempio, ma in un minuto, di una ricetta, certo, che proponi, sì, al tuo pubblico quando sei sul palco? Faccio il mio must, che è la parmigiana di melanzane, ormai è un classico, qui ve la sintetizzo, sì? La parmigiana di melanzana alla salentina, la versione pesante della più nobile parmigiana napoletana. Henri De Luca, grande scrittore, insegna che le melanzane, rigorosamente di stagione, vanno lasciate seccare al vento e al sole per 2 giorni. Se abitate in città, lasciate perdere. Okay. Tagliate le melanzane con uno spessore di 1 centimetro circa, friggetele dopo averle passate in uova, sale e farina. L'operazione è vana con le melanzane da supermercato enormi che non hanno alcun sapore. Preparate poi una quantità indefinita di minuscole polpette di carne, ovviamente fritte anch'esse. Sul terzo fornello si cucina un buon sugo. La parmigiana è un piatto di agosto, normalmente si mangia il 15 agosto a pranzo con la nonna sotto i 40 gradi centigradi, effetto psichedelico. Costruite il vostro castello di pasta, ovviamente alla base mettete l'olio e rispettate la regola di mia nonna: Daniele, se hai un problema aggiungi olio. Okay. Mettete poi fra un piano di melanzane e l'altro la mozzarella, la passata di pomodoro, il parmigiano, le uova lesse, la mortadella, e così fino all'ultimo strato. Questo perché in queste scene, in questi pranzi devastanti, le persone che sono invitate, mettiamo il caso che sono 30, ognuna cucina per 30. Okay, 30 certo. Per 30, 900 persone che possono mangiare, e non resta niente, perché l'uomo si protegge attraverso la comunità. Daniele, immagino che questa cosa in Italia avrai, insomma, un po' la nostra reazione, che era quella di sì, è vero, è così, ma quando porti questa ricetta all'estero ti guardano e dicono... Dai, siano innamorati dell'Italia tutti, guarda, io quello che vedo è che c'è un amore profondo, e quindi mi dicono: guarda, solo un italiano può immaginare uno spettacolo così folle. Anche questa è cultura europea con Don Pasta, grazie davvero e buona tournée. Grazie a voi e un saluto a Davide Paolini. Certo, che qua che fa sì con la testa. Ciao! Ciao! Europostit. Solo bionde, per favore, le more non le vogliamo. È riservato a sole ragazze bionde la sfilata Go Blonde, un festival benefico che si tiene tutti gli anni a Riga, in Lettonia. Più di 500 le ragazze, vestite completamente di rosa, tutte rigorosamente biondissime, che hanno sfilato pochi giorni fa per le strade cittadine per raccogliere fondi per la costruzione di parchi giochi per bambini bisognosi. Per vedere qualche foto curiosa delle bionde lettoni di rosa vestite, goblonde.lv. L'altra Europa. E questi sono i nostri Europost-it, prendete appunti, sono segnalazioni sull'Europa, sono piccole chicche che vi vogliamo regalare, che anche voi potete suggerirci via sms al 349-238-6666 oppure via email l'altraeuropa@radio24.it. E chiudiamo con un ospite, si parla di inglese, si parla di corsi di inglese, questi noiosissimi corsi di inglese che prima o poi tutti devono fare. Beh, lui è inglese, quindi non aveva bisogno di imparare l'inglese, però si diverte molto a insegnarlo all'italiano e agli italiani, e da questi insegnamenti insomma ha tratto di fatto mille spunti per farci del cabaret, per ridere di noi italiani. Lui si chiama John Peter Sloan, frequenta Zelig, quindi potete capire la serietà del personaggio, ed è autore dello spettacolo, che è anche un libro, Instant English. Ciao John Peter, benvenuto all'Altra Europa. Hi Federico, bellissimo parlare ancora con te, how are you man? Ci si ritrova, molto bene, grazie. Allora, John, tu insomma davvero sei in inglese agli italiani o è solo un tuo modo per deriderci un po'? No, assolutamente, anzi io non prendo in giro gli italiani, questa è... In realtà Zelig in English è nata, cioè il libro anzi è nata per motivi seri, è molto ironico, cioè a fare di corsi di divertirsi l'ho fatto prima di tutto per sciogliere questo famoso blocco che ha l'italiano con l'inglese, cioè questo terrore di imbarazzo che hanno, che io l'ho trovato subito insegnando inglese, quindi a fare degli esercizi a un corso un po' comico aiutava magari aiutava sicuramente a sciogliersi, ma soprattutto il corso l'ho fatto perché c'è l'italiano, c'è come prima pagina del libro c'è scritto che questo libro è dedicato a tutti gli italiani che pensavano di essere loro il problema, perché i corsi che ci sono in Italia erano molto inefficaci, quindi ho fatto il corso che mi serviva a me, cioè in poche parole c'è l'usanza ancora di usare i corsi di Oxford e di Cambridge che sono molto efficaci, ma non sono scritti per gli italiani, sono scritti per noi, quindi ci voleva un corso con proprio l'italiano in mente. Per esempio qua ho notato subito che i verbi più importanti, sì, non li conosceva nessuno. Se tu pensi che il verbo più usato, più necessario, robusto che esiste in inglese è get, cioè quello che io chiamo l'anglo famiglia anglosassone, i verbi tipo get, set, let, put, questi qua, sì. Cioè get è da andare da un stato all'altro, cioè tutti sanno che I get up è mi alzo, ma non sanno che e vuol dire di andare da giù a su, o a ubriacarsi da non ubriaco a ubriaco is to get drunk, cioè capisci, cioè, si può dire mille cose, invece li immersono in mille verbi specifici quando veramente noi inglesi usiamo pochi verbi, quindi insegnando subito già da elementare questi pochissimi verbi, anche i phrasal verbs, per esempio tu sai che sort out, che sì, qua nessuno lo conosce, to sort out vuol dire sistemare, procurare, sì, occuparsi di, vuol dire tantissime cose, noi in realtà in Inghilterra non usiamo tutti questi migliaia di verbi che qui sono insegnati, usiamo proprio pochi, capisci? Insomma, John, qua, già questo è bello, abbiamo pochissimo tempo e ci risentiremo magari già la prossima settimana, perché la cosa che mi interessa capire è riderci un po' addosso, cioè sì, va bene il corso d'inglese, ma tu hai un modo tutto tuo di raccontare, di vedere noi italiani, quindi insomma mi piacerebbe condividere con i nostri ascoltatori. Chiudiamo proprio con una chicca, cioè alla domanda: noi italiani come siamo secondo te? Ma gli italiani sono i più grandi comunicatori del mondo, sono divertentissimi per noi inglesi, c'è questa idea poi sbagliato che sono un po' visto male in Inghilterra, che non è assolutamente vero, cioè io ho portato, l'ultima volta che sono andato a Birmingham ho portato mio amico Aldo, che è di Puglia, un bassotto che in Italia non ha tanto successo con le donne, e lì, mamma mia, morivano intorno, perché a Birmingham, Liverpool, Manchester non ci sono italiani, capito? Okay. Quindi le donne si sono innamorati tutti. Adesso lui aveva il negozio Elettra Auto qui a Milano che la sta vendendo per andare là. Ok, capito? Chiudiamo così, grazie davvero John. John Peterson, Instant English, un grazie davvero ad Alba Chiara Rondelli che con me ha scritto il programma, ad Anita Ariotti in redazione, a Peter Bescapè alla parte tecnica, www.radio24.it è il sito dove potete trovare le nostre pagine e dove potete scaricarvi il podcast. Noi saremo qua ancora sabato prossimo, sempre alle 10 con l'Altra Europa. Ciao!